di Guzzi, sempre Guzzi, pure chi sa se ladre, per carità, lasciamo perdere. Ma comunque non me l'aspettavo, domani il telefono li faccio casino, dico di telefonare immediatamente a quel cazzo di ingegnere della LEM e diglielo, cioè un'antenna si può staccare dalle cose. Lo so Anto, lo so, un casino, sì, è un casino. Devono fabbricarle bene, non così. Guardi, questa è vecchia, ho rimesso questa perché mi sono capitato per qualche cosa di strano in Kiwi. La aggiusterò perché non è che la butto via, però cavolo, non ne compro mai più. Adesso dove non la comprare mi compro la Venom e se la biglia e luci, ma la ordino appena che posso. Tanta lampadina con paralisi. Fate me pompo! Pompetta! Aspettavo cucinando. Ci fate le pizzette di Ruspin, quelle da 7 euro. Quelle buone, come se ne è. Adesso me le mangio. Due. Mangio la bambi. Stiamo fra poco, va. Attore, me la torno a riaggiustare, là, quella lì. Che cosa? Arrigo, ha fatto subito difetto, subito, si è staccato da sotto. Io la riduzione, oh yeah. Eppure io gli avevo fatto presente quel problema, sì, vedremo, la giuda. Cazzo, adesso mi sente, lui che parlo con il responsabile, glielo dico. Cioè, almeno dico, vorrei avere un riscontro su questa roba qua. Inutile che io ci piazza una cosa sul tetto quando si rovina. Cioè, ma manco piazzata. E poi non riguardo a stazionare bene. Vabbè. Te lo sto dicendo. Dopo dottore, guarda, meglio con l'antenna 5 ottavi, 7,2 di radiali che è meglio. Costa 20 euro in più di quella che l'hai pagata tu, mi sembra, una cosa del genere, forse è meglio. Piazzi quella e va a far culo. Ma io non ne voglio antenne così grande, ma fuori di gabus io cosa, Antone? Cioè, io cioè, voglio un'antenna che funzioni. Io se devo non la comprare mi compro la Venom. Almeno so che funziona bene e non dà problemi. È tarata pure, non devo stare ammazzendomi. Adesso me la ordino io, vediamo come funziona. Se funziona bene me la ordino e me la tengo, se no non so cosa dirti. Guarda, chi ha la Venom l'ha preso, l'ha piazzata in buono, ha dovuto fare un nuda e sta funzionando. Ho capito, perché sto mangiando, ci rispondo dopo, dai, se la trovo. Un controllo per cortesia, qual è il segnale? Prova. 9:20. 9:20, ok. No. Aspetta un attimo, ma ti cazzo è portata la grossa? Almeno qui, c'hai tu? No, pensavo fosse messo già il giusto. Cioè, c'è 9:20, così 9:10 allora. Guarda un po'. Prova un attimo. Sacca, solo non me la colgo, Va, così è sganciato. Mandate la cosa. E voi c'è attaccato, 1, 2, 3, profa. 10:20. 10 di B. Via, vabbè. Cazzo, quello RM Italy costa. Solo il connettore 20 euro costa, un connettore da niente. Che magari voi non lo posso anche... Lo posso far entrare dentro e collegarlo direttamente. Però va a finire in benzina, ma un cazzo giù. Entro solo la sera. Addirittura, di mattina è raro. Ma anche sono a casa. Ma sono dei soldi così. Ho capito. Aspettate voi che sto mangiando. Ci stiamo fra poco, là. Sono a fuoco. Sì, fai. Hai un immobiliare, Italy. E quello da 300. Beh, cosa c'è in particolare? È meglio del 747, tu cosa ne dici? Ah sì, quello sì. 747 va bene perché è un ultimo amplificatore. Lo metti in macchina, perché c'è la macchina va bene, in casa non andrà bene. Sì, già, lo so già. Ma no, ma comunque io ce l'ho qua. Mi funziona bene. Cioè, proprio un legnaretto così già va bene. Ah, certo, certo. Allora non ti rapporto. La fotti nulla. Mi interessa, per il momento è così e basta, va. Stamattina mi sono fatto un lavorettino. Ho messo a posto degli interruttori di una casa. Praticamente da su accende la luce, poi quando scende giù la stacca, tac, corre lì. Ci ho messo un'oretta circa, un'ora e mezzo, 50 euro. E non da me. E ho messo anche il materiale. Crappa. Se ci hai guadagnato va bene. Vabbè, non ci ho perso, ci ho guadagnato sì, a Puglia. E vabbè, poi uno che conoscevo anche da gli ho fatto un buon prezzo. Sì, infatti bagare a tutti i dinni lui. Lo conosce, non conosce, però lavoro è lavoro, i soldi sono i soldi. Anche non te ne regala nessuno. Me. Ah tu sai, vabbè tu non ti piace, cambia ogni tanto. Vuoi salire da Mirko sa, venerdì, sono in Santa Fe. A Sara devo chiedere. Quelli che sono con la chitarra, sono ben bravi. Poi c'è Galleri, poi c'è Galleri che fa karaoke la prossima settimana però. Puoi anche salire, poi c'è anche Costanzo Sana che fa karaoke. Cioè sto per cambiare mia, tu capito? Ma Luciano Galleri che andrò a fare la prossima settimana. Eia. Ma vediamo un po' cosa. Dai, vediamo di. Cazzo se possiamo fare karaoke, se possiamo fare. Allora, canta anche lui, Si porta la chitarra e canta anche lui. E poi si può karaoke. Sì, fa karaoke, sì sì. Ti faccio sapere. Sì, pronto, c'è problema. Su cazzo. E su Maria. Perché noi lì siamo tranquilli, non ci rompe le balle nessuno, capito? Se ci sentiamo in casa, magari in un altro posto, boh. Ho capito, Anto. Chieda a Giuseppe, ci troviamo bene perché siamo tranquilli. Perché lì, che sei più che tranquillo, ma ti rompi le balle. Va, ma stai scherzando, sei con noi, con amici, non ti preoccupare. Tranquillo e sereno. Questa settimana penso di no, ma l'altra settimana vediamo, dai. Come vuoi travisare, se vuoi venire siamo da Mirko, però mi sa che questo sabato non usciamo noi, perché Marina si vuole guardare, come si chiama, amici. E la sua amica mia, amica due. Nemici. Che cagata che. Comunque l'altra me ne ha già stata in tram, l'ha giunta il pacchetto a Dave. Mi ne ha già rigato a casa. Allora già ci ho fatto io, ho già pigliato un dubbio dell'antenna che ha già fatto da sopra, che ci ha preso. Ma tu ragazzi, mi ha acciappato la polizia, ragazzi mi rompia le balle. Perché? Magari pensavo che volevo picchiare qualcuno. Una cosa, va. Oi. Ciao, buono, ciao Luciano Gallino, un periodo che arrivava a bomboli, burueddomi. Attinamente, non l'ho mai visto così. No, non l'ho mai visto. Ma usando la via, in via la Marmora la via. No, non lo so, Anto, non mi ricordo, sono sincero. Lo sto dicendo io, ce l'avevo in via la Marmora, ma l'ho tenuto poco, che ha detto che è troppo pesante di bombole. Chi fa ora? Schiappa. Ha tenuto poco, l'ha tenuto un negozio, perché no. Non fa zia. Non fa zia, no. Non era per lui, no, non era roba per lui. Non era, e lì c'è tanto sacrificio, cioè. Già lo so. Ha di nudo mi pare un anno e mezzo o due, ti ha serrato tutto da voi, era di. Tipo dai, era la rivendita, pure ha tenuta lui e ha serrato tutto. Ma. Non è abbaedo, no? Anche un lavoro un po' particolare. Tutti sono convinti che fare i vattene in Chiave che poi ti, c'è una cosa che ti devi mettere in testa, devi lavorare per fare i dinami, in chi vi è così, no? Devi lavorare per forza, per fare i soldi, se no muori. Beh, certo, come il resto dei lavori, non solo lì. Tutti lavorato, sono lavori, tutti, di più che meno. Ciappa. Lì è una, le bombole sono più una costruzione, cioè non c'è moltissimo guadagno e più devi gammellare, devi, no? Ma infatti. Che camminare sì, vabbè. Lavore un po' per tutti, un po' così. E se vuoi qua. E se avessi i pomponi affugato così è pompo. Collano. A manna c'è la pizza, sei manna. Sono 4 pizze di 2 spizze, già lo sai quali sono. Quella da 7 euro. Sono veramente buone, molto meglio di quelle che vendono da coso. Sono buonissime, ci puoi dire quello che vuoi e sono lusso. C'è il piago di guru. E fondi. Non mi piace se lo spinto, troppo... no. Se non mi mangiano una pizza buona, vai da Bruno, diglielo a tu. Vabbè, magari lui vuole parlare sempre di quei livelli di surgelati, mi capito. Magari tra le pizze surgelate quelle sono buone. L'ho pigliata un metro d'acqua, quindi prendo la cesaraccio, cioè... Ma schifo, quindi a un certo punto penso che queste sono migliori. Ma ci può avere anche la birretta, c'è la birretta, sì. Certo l'ho pigliata la birretta, al bar però. No, adesso dopo la pizza ci vuole la birretta, se no va bene. Non ho bevuto per niente ancora, sto mangiando. Dopo me la bevo. Ti gonfia una maniera allucinante, tanto birra e pizza, mamma mia. Tu pensa alla pizza con i battatini da bue mio, ui, è tanto Antoni mio, caro. Ti fa esplodere, lo stomaco. Già lo so. Comunque, buona era che quando l'abbiamo mangiata lì alla Volpe Luva, ti ne ammetti? Sì, buonissima, sì. Un po' caro quel posto, no? Caro, però trovati... trovati, cioè... troppo buona la pizza. Sì, personale serio hanno, cioè, e da voi pagano tutto, e di gozo è chi so, cazzo che cagga, di quello ingegner Mulas, cioè di due con due fratelli gemelli sono, e quel locale lì, ma loro sono seri, i dipendenti li pagano tutti, no? Non vale problemi con nessuno, pure a noi, sempre io vado, li porto 3-4 bombole per i funghi, ta ta ta, soldi. Beh, ma idea è tu. No, sono seri, sono tranquilli. E devo così. È un casino. Lui è vero. Sono tutte le dita spaccate, i raghi, ben male. Senti l'ultima. Sassa distributori presi d'assalto per la sciopero degli autotrasportatori, in panico tra i consumatori, l'annuncio dello sciopero tra... sciopero 10 giorni trasportatori per il caro benzina marketing, carrelli acqua, olio, zucchero, di tutto. Sto facendo la scorta. Sì, lo so. Fanno sciopero, è un casino, eh. Se continua così andiamo male, mi tu, molto male. Cosa si può fare? Boh. Un bel casino, eh. Avasso, ci sto comparendo i cantesici. E lo di nannonnaggio, poi, fino a sabato. Voglio vedere se riesce a comprare qualcosa. Cazzo. Veramente, cazzo. Certo, un casino. Poi quando uno paga l'affitto, come lo paghi tu? I soldi, gli amici zisci, affitto, luzi, Eva. Di luce molto hai pagato. No, per fortuna di quello no. Non abbiamo pagato tanto. Ma cosa vuoi consumi noi? Lo scaldabagno è boom, non ho tutta elettrica, non abbiamo niente, mi. Chi su, che vuole la televisione, attendiamo. Cioè non abbiamo dei consumi, la lavatrice boh. Tipo, vabbè, farlo la sino, su a capelli. Claro. Caldino, come fate? Ora su a gas. Ah. Vabbè, no, mio fratello usa la sua capelli. Poi qua usano la stufa elettrica, via. Farò l'assino. No, se cazzo farò l'assino, non mi interessa. Mi se che camicia così la do goa. A me cognata, che d'uno, la faccio stirare e basta. Non ne usiamo una di quelle cose. E cazzo la corrente è goccia in occhi, cioè. No, se cazzo, la fare l'acqua freddo, qualche volta a caldo, ma proprio raramente mi. Perché tanto io lavoro di continuo, quindi non è tutta roba sporca, capito? Vabbè. Secondo me. Secondo me. L'assio, tipo quelli. Come si chiama? Quelli elasticizzati, i pantaloni. Quelli non vanno stirati, li devo tenere buoni. Cioè, appunto, ma ci quelli normali che non vanno stirati. Lu. Non ha più braccia, mi. Me ne affitti nuda, no, tanto. Già va bene così. Quando sta a stirare qualcosa, lo do a mia cognata lo stira. Cioè, il cazzo se no in occhi a pagare corrente. L'asciugare i capelli per dire, per asciugare i capelli. Uso quello più piccolo, uso, ma al volo consimi. No, se no in occhi non basta pagare corrente, ma vai gabusemo. Non so come cazzo intende il suo cazzo di cafuso. Cioè, proprio per non consumare. Ma lascia perdere. Vabbè, ragione, ci mancherebbe. Hai ragione. Vabbè. Già, vabbè, posso travagliare per l'Enel. Lascia perdere. Ok, dai, detto ciò, io mi zigocco, sono stanco, morto. Vi auguro buonanotte a tutti. Ciao, Anto, buonanotte anche a te. Alla prossima. Saluta Sara, ciao. Ciao, ciao. Adesso oggi mangio bigliettino. Stamattina non ho fatto niente. Stasera una mia sciarata di bomboli. Vabbè, se ne travaglia. E vedi, il tuo gaidino. Speriamo bene. Ok, ciao ciao. Ciao. Ciao capo un pugno, ciao ciao. Ciao ciao ciao.